pensare che gli specchi nascondano sorrisi. Come puoi pensare che i rimpianti non siano fiordalisi? Son d'accordo, non è amore, ma se proprio il viaggio non ti piace, pensare che una storia si arrenda senza gloria. Giuralo che non mi ha amato mai, giuralo che non mi ha amato mai. Come puoi pensare che era spenta, hai perso la memoria. Giuralo che non mi ha amato mai, giuralo che non mi ha amato mai. Sono d'accordo, è finzione, ma se proprio impari